parecchia suspense, anzi potrei dire anche ansia, in una, almeno in un lettore come me. Perché allora si parte dal concetto che c'è questa bolla papale, Roma non deve mai rimanere al buio. Inizia questo blackout, quindi insomma si capisce che accadrà qualcosa, ma Donato Carrisi, non essendo contento solo di questo, che cosa fa? Intitola dei capitoli con il conto alla rovescia, no? Tipo mancano 7 ore al tramonto, mancano 6 ore, 50 minuti, e uno dice oddio, sta per succedere qualcosa. Ma sì, io sono in questo senso, creo la suspense perché guarda, di giorno è facilmente affrontabile un blackout, no? Perché tanto la luce del sole ci permette di guardarci in faccia e diciamo i timori sono in qualche modo sopiti, ma nessuno sa che cosa accadrà al tramonto, tant'è che di giorno si riversano tutti per strada per festeggiare quasi un carnevale macabro la fine della città che si credeva eterna, perché vivendo a Roma da tanti anni non ho mai sperimentato una Roma svuotata dal traffico, una Roma con questa pioggia incessante, poi tra l'altro una Roma... Nei tuoi romanzi piove spesso. Ma sì, ma non si può delinquere col sole. È impossibile, per quanto mi riguarda è impossibile, per cui va bene che ci sia questo evento climatico abbastanza potente, perché c'è una tempesta che infuria su Roma. Infatti sarà questa tempesta poi a causare il blackout, perché appunto interrompe tutti i collegamenti, ci rimane senza telefono, telefonini, insomma la città, le persone rimangono isolate. Esatto, e questo isolamento che amplifica poi tra l'altro il male raccontato nel romanzo. Io devo dire che sono partito da un assunto semplicissimo: ormai siamo tutti quanti dipendenti dalla tecnologia, crediamo di controllare la tecnologia, invece no, è la tecnologia che ci controlla. E succede una cosa molto, molto singolare. Questa è una società che ormai è settata sull'odio e sulla rabbia, e la nostra valvola di sfogo è internet, i social. Esattamente, ormai abbiamo capito che dire le peggiori schifezze su internet ci lascia assolutamente impuniti, e mi sono domandato, ma se per caso ci venisse a mancare questa barriera tecnologica, noi che siamo ormai diventati odiatori, no? Contro abituati, chi riverseremmo il, esatto, nostro odio, in che modo? Magari scenderemo per strada e cercheremo nella più completa troppo anarchia, no, non dico altro, però in questo scenario che si muovono i due personaggi. E poi sono il maestro delle ombre, insomma si capisce che le ombre ci sono. A proposito del conto alla rovescia, no? E poi del conto che di città manca tanto all'alba, manca tanto al tramonto, e la tua tecnica di creare la suspense, ho visto sul web, a proposito sempre di social, delle tue mini lezioni, delle tue pillole su come si scrive un bestseller, su come, insomma, i tuoi consigli da come scrittore. Come se lo sapessi in realtà, ma non lo so. Sì, fai finta di non saperlo. È vero. E mi ha incuriosito quello sulla suspense, perché tu dici, per creare un thriller, l'autore deve leggere molti libri romantici. Per scrivere un libro romantico, l'autore deve leggere molti thriller. Che cosa hai letto tu prima di scrivere Il Maestro delle Ombre? Ah, storie d'amore a go-go, guarda. Dai, fammi un titolo, dai, su. Non posso fare i titoli, non sarebbe corretto, perché dovrei citarti pochi libri, in realtà ne ho letti tantissimi, ma è così che si prepara un thriller. Ma perché? Perché c'è questo legame fra il romanticismo e la suspense invece della paura? Perché proprio dal sentimento opposto che viene fuori il sentimento che invece vuoi raccontare. Io penso che non potrei scrivere thriller se non fossi innamorato nella vita reale. Sembra strano da dire, ma è esattamente così, perché è un po' una valvola di sfogo. L'amore per il thriller o il thriller per l'amore. E poi anche perché hai bisogno di conoscere molto bene la materia da cui parti, nel senso che la paura deve affondare le radici nell'amore. Dobbiamo avere paura di perdere ciò che abbiamo, no? Se non abbiamo nulla da perdere, non abbiamo paura. Insomma. E questo, certo. A proposito del romanticismo, dell'amore, eccetera, gli autori fanno sempre delle dediche per i propri romanzi e dei ringraziamenti. Mi ha colpito molto una parte dei tuoi ringraziamenti. Tu scrivi a loro, dopo aver citato alcune persone, si aggiunge l'apporto di quelle che io definisco le eternità presenti, esseri umani che riescono a cambiarti l'esistenza semplicemente standoti accanto. Io la trovo una cosa bellissima. Hai visto? Sono un romanticone, sono un tenerone. Alla fine veramente sei... No, a parte non ti sto prendendo in giro, non è il modo di dire mieloso, romantico. È una cosa meravigliosa che tu scrivi. Sì, ma è vero, ma ci sono delle persone, e tu capisci che sono eterne accanto a te, perché ogni loro piccolo gesto si riverbera in ciò che fai. Io penso che le mie parole siano dipendenti, non dipendono soltanto dal mio stato di grazia, dalla fantasia, dalla mia ispirazione, dipendono anche dalle persone che mi parlano intorno, perché poi noi siamo estremamente recettivi. Uno scrittore è un'antenna, in realtà. Non si può essere scrittori eremiti. Sì, è un'antenna però per tutte le cose, le persone che incontri anche casualmente nella vita. In questo caso ti riferisci a persone che per la loro stessa esistenza hanno un significato profondo per te. Ma sono quelle che ti colgono nei momenti, che ti vedono nei momenti in cui sei più vulnerabile nella vita quotidiana. Quindi, infatti dicono, è inutile citarle, loro sanno benissimo di chi sono. E sanno benissimo quanto io le ami. A chi fai leggere la prima stesura dei tuoi romanzi? Al mio amico Vito Lorè, che è un musicista, grande compositore di colonne sonore, sarà anche l'autore della colonna sonora del mio prossimo film. Tratto da quale libro? Tratto dalla ragazza nella nebbia, con protagonista Tony Servillo. E lui è il primo in assoluto, da sempre, quasi, è molto più di una questione scaramantica, perché allora io detesto essere adulato, detesto quelli che mi indorano le pillole, affronto la critica molto serenamente, anzi se non ci fosse la critica non ci sarebbe l'autore, quindi lui sa sferzarmi a dovere, se una cosa gli fa schifo me lo dice, guarda Donato questa cosa mi ha fatto schifo, poi litighiamo per 2 ore su questa cosa, non ci parliamo per 3 giorni, ma però io lo c'è ascolto. Un confronto, tu lo ascolti, sì, e sì, questa è la cosa bella. Il primo. E allora voglio essere anch'io aggressiva con te, voglio farti una domanda cattiva, che poi non ci riesco a fare domande cattive. Comunque, tu mi ripeti spesso, da quando ci conosciamo, dall'epoca del suggeritore praticamente, che potenzialmente in ogni essere umano ci potrebbe essere un killer, perché giochi spesso su questo concetto del mancato confine netto fra bene e male. Ora che stai invecchiando, caro mio, inizi ad essere un po' più buonista, inizi a pensare che magari non in tutte le persone si può nascondere un killer. L'età in questo ti sta cambiando? Non è vero, assolutamente no. Penso ancora che ognuno di noi nasconda un killer dentro di sé. Dammi un buio, dammi un blackout, dammi l'anarchia. Il blackout che era Radio 24, cioè non andiamo in onda. Ho capito, ma dammi queste condizioni, vediamo se scendo per strada e ammazzo qualcuno oppure no. No, devo dire che non sono diventato migliore, anche se poi sono diventato padre da poco. Tutti dicevano, ma ai tempi il suggeritore ammazzava le ragazzine tagliando loro un braccio, adesso si sarà intenerito, ma no, che? Questo libro no, l'ho fatto apposta, ho fatto sparire un bambino. Ecco, a proposito della trama, che insomma io non voglio svelare mai troppo dei thriller, però c'è un elemento fondamentale, perché in questo romanzo, oltre ad indagare su una serie di delitti che vengono commessi, i due vanno alla ricerca di un bambino che è scomparso. È un bambino cittadino di Città del Vaticano. Come dire, il riferimento va subito a Emanuela Orlandi, caso di cronaca reale. Hai preso spunto o è solo una coincidenza? Allora, io ti faccio notare 2 cose. Il fatto che sia un cittadino della Città del Vaticano l'hai desunto tu e l'hanno desunto tantissimi altri lettori, ma io non l'ho mai detto nel romanzo. Quindi siamo tutti un po'... ingannati, perché questo romanzo è costruito come un inganno. Io tendo ad evocare le informazioni. Sei tu che hai fatto un collegamento con Emanuela Orlandi e non sei stata la sola. Io in realtà non parlo dei cittadini del Vaticano. Ti sfido a rileggere il libro, appunto, a cercare il riferimento. Però è necessario, io ci ho pensato, era necessario che quella informazione fosse evocata. Quindi te l'ho evocata con altri elementi. Come la gira e come la volta, Donato Carrisi, ti frega? Eh sì, dovrebbe essere così. È per questo che uno degli autori di thriller più amati non solo in Italia, ma anche a livello internazionale, perché lo ricordiamo, tu hai avuto i complimenti di grandi maestri come Ken Follett, Michael Connelly, ma ti chiamano ancora o siamo solo fermi all'epoca del suggeritore? Apprezzano ancora i tuoi romanzi? No, cioè, è rimasto un buon rapporto, devo dire, con molti di loro, cioè, c'è ancora un utile scambio e questo aiuta a crescere, perché poi ti riempie d'orgoglio, ti motiva. Devo dire che ancora questo scambio tra autori funziona. Ecco, uno dei pochi ambienti in cui lo scambio di idee funziona appunto questo, dei romanzi, della letteratura in genere. Cosa dirvi? Donato Carrisi ha scritto un nuovo thriller, Il Maestro delle Ombre, pubblicato da Longanesi, l'abbiamo detto, fa parte del ciclo di Marcus, Il Tribunale delle Anime, quindi Il Penitenziere di Sandra Vega. L'ha detto lui, l'ha scritto come un inganno, quindi lo leggete a vostro rischio e pericolo. Io vi posso solo consigliare che se siete particolarmente ansiosi, tenete accanto una boccetta di Xanax. Grazie Donato Carrisi. Io avvelenerò lo Xanax, ovviamente. Grazie a voi. Grazie, facciamo una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus, il cacciatore di libri. Si intitola Rifondata sulla bellezza, l'ha scritto Emilio Casalini, pubblicata da Spino Editore. Ma qua dobbiamo subito aprire una parentesi, perché avete presente la storia dell'uovo e la gallina? Cosa è nato prima, l'uovo o la gallina? In questo caso è nato prima il libro o la casa editrice? E allora a questo punto svelaci subito il mistero. Emilio Casalini, che insomma è un giornalista anche di Report, per esempio, fra le tante cose, trasmissione televisiva molto nota, chi è nato prima? Il libro. E poi la casa editrice è stata la casetta che si è costruita, proprio la casa, no? Intorno al libro. Cioè, non riuscendo a pubblicare il libro, tu ti sei addirittura costruito una casa editrice, diciamo la verità. Diciamo la verità, quattro contratti firmati, con quattro case editrici, anche molto, una molto grossa, e poi... E poi perché hai scelto allora? L'anarchia, la voglia di fare... Sai quando hai un progetto talmente particolare nella testa che è difficile raggiungere qualsiasi compromesso, anche giusto, anche però vuoi la libertà assoluta, allora te la scegli, e l'unico strumento che mi dava la libertà assoluta era quello di avere una casa editrice di cui ero anche l'editore, così posso al limite litigare con me stesso, è anche divertente. Insomma. Quindi hai fatto tutto da te, insomma. Sì. Non è self-publishing, è proprio la casa editrice. Allora, Emilio Casalini, Rifondata sulla bellezza, ci si riferisce all'Italia, al nostro paese. E è un titolo anche abbastanza, come dire, curioso, perché dell'Italia si dice sempre la bellezza dell'Italia, il cibo, il paesaggio, i monumenti, eccetera, eccetera. Invece poi, leggendo il tuo libro, ci si accorge che un po' brutti lo siamo, cioè più che altro non sappiamo conservare, tutelare la bellezza, non sappiamo, come si dice, mantenerla? No, sì, non la sappiamo mantenerla e né valorizzarla, siamo dei cialtroni, perché siamo nati viziati, un po' come la mia generazione, che è una generazione di persa. Siamo nati in un paese troppo bello per quello che è la nostra coscienza. Non sappiamo mantenere quello che abbiamo. È troppo facile. Vivi così. E invece oggi, per far funzionare le cose, bisogna avere grande cura. Per fortuna il mondo, tra i tanti aspetti negativi di internet, del network, della socializzazione, della globalizzazione, c'è quello del rating, per esempio, il giudizio. Oggi se sbagli ti massacrano ed è una cosa bellissima. Allora facciamo degli esempi. In che cosa l'Italia sbaglia nell'accogliere, per esempio, i turisti, soprattutto stranieri? Perché tu giustamente dici sono gli stranieri che poi portano denaro da paesi esteri in Italia. Fai due esempi di due o tre cose che sbagliamo. Piccolissima, i cinesi sono il 10% del turismo mondiale e non dobbiamo uscire da questo stereotipo del cinese sfigato. No, il cinese è una classe con una cultura straordinaria, hanno una storia come la nostra, anche più antica, e ci sono dei turisti di grande cultura che vengono a scoprire la nostra, quindi è una contaminazione culturale. Ci pagano per offrire la nostra. È un popolo, sono il 10% del turismo mondiale, sono un popolo che beve l'acqua calda, nei nostri stanze d'albergo non c'è un bollitore che pagarne uno. Come condivido questa opinione? Essendo una grandissima bevitrice di tè, mi rendo conto che all'estero c'è sempre il bollitore sempre. In camera. Che ci vuole? In Italia bisogna pregare per avere un bicchiere d'acqua calda e farsi il tè. Seconda cosa. La narrazione. Come possiamo pretendere che chi arrivi conosca Cioè solo ancora funzionare attraverso o per esempio muoversi col navigatore. Navigatore noi siamo abituati a farlo perché siamo collegati in rete. Chi arriva all'estero, se tu vai in Cina, non sarai connessa con la rete, con la roaming, perché non vuoi massacrarti. Quindi come ci si muove? Vogliamo imparare a scrivere bene i nomi delle strade, le indicazioni stradali, i per impedire stradali. Segnali stradali e poi sulle strade la narrazione del nostro territorio non costa niente, non rovina, anzi migliora quello che è lungo le nostre strade, raccontare la nostra identità. Noi abbiamo un problema di identità, non la raccontiamo forse perché ce la siamo anche dimenticata. Ma cos'è? Noi italiani in genere siamo abbastanza fieri di essere italiani, c'è questa come dicotomia. Da una parte all'estero parlano benissimo, per esempio la moda, il design eccetera, dall'altro lo stereotipo, l'Italia, mafia, criminalità eccetera eccetera. Che cos'è che non riesce? È interessante, vedi, proprio questo fatto che hai notato anche tu. Noi siamo forse l'unico popolo in cui convivono perfettamente due stereotipi opposti, mentre per gli altri popoli o uno stereotipo o l'altro però sono coerenti. Da noi c'è una dicotomia di stereotipi che è unica al mondo. Siamo contemporaneamente i più grandi casinari, cialtroni, e dall'altra grandissima creatività, grandissimo talento. E noi dobbiamo ridurre, perché c'è un problema, abbiamo una storia che è straordinaria, è il problema del presente secondo me. Quindi noi abbiamo un passato di cui godiamo un frutto straordinario, bellissimo, però non siamo oggi, non siamo noi in grado di gestirlo. E quindi andiamo avanti, il turismo funziona in Italia nonostante noi, però è talmente ampia la massa di turismo che si sposta, soprattutto in questo momento di bolla con Nord Africa che è bloccato, certo, che tutti per sono il terrorismo con... certo, per altre quindi ragioni tutto, sì, funziona, aumentiamo, no, non è vero, facciamo schifo come performance di turismo, e lo si capisce dal rating rispetto a quello che abbiamo. Poi basta guardare la Croazia, sono cresciuti, sono un sesto di noi, sono cresciuti come molto più di noi del turismo, ci sarà qualcosa che non va. E poi è la narrazione, perché non siamo capaci di raccontare la nostra identità, che non è, è come la bellezza, non è una bellezza oggettiva, è soggettiva, è un mosaico di microparticelle. L'identità è la stessa e il mondo oggi vuole autenticità, non vuole l'Italia. Oggi siamo in una particolare congiuntura internazionale in cui ci sono milioni di persone che vogliono conoscere le unicità, e quindi ogni piccolo territorio è una piccola Italia. Ecco, però a questo punto ci troviamo davanti a un altro problema, che è quello di far rete, no? Se il piccolo borgo della Basilicata vuole farsi conoscere in Germania, in Norvegia, negli Stati Uniti, è vero, su internet lo può fare, però spesso c'è bisogno di far rete fra le varie strutture alberghiere, di accoglienza eccetera. In questo come siamo messi? Malissimo, perché noi siamo intanto un popolo di campanilismo, quindi ancora rimane, ancora permane una cultura in cui il comune fa la guerra a quello vicino, pensando dai grandi idioti che il turista che va lì non è quello che viene da te. Certo. E invece esattamente il contrario, funzionava 20 anni fa, 30 anni fa, è finito, è cambiato quel mondo, ma non se ne sono accorti. Quindi tu invece promuovi il paese a fianco e la gente dice: oh, che figo, cioè questo è quello, perché non è più lo stesso meccanismo, non c'è più la gente che va per 30 anni in un posto, si cambia continuamente ed è bellissimo questa cosa. Quindi intanto il campanilismo, siamo anche il popolo del campanilismo perché avevamo la città-stato, quindi abbiamo una tradizione, certo, no, che paghiamo di separazione. Però dobbiamo imparare a far rete anche, esatto, per farci conoscere. Basta iniziare a collaborare i comuni. Oggi ci sono perfino i quartieri che si combattono, certo, e non promuovono quello, il vicino di casa, il vicino di paese, cioè, allora la rete, e questo è il primo livello. Il secondo è uno sdoganamento del provincialismo che invece pervade ancora la nostra cultura, per cui lo straniero è ancora un deficiente che possiamo fregare. Neanche ecco, questa, lì bisogna sempre spennarlo, no? Cioè, esatto. Non nomino le categorie, però insomma capita a volte che se si vede lo straniero si fa un conto diverso rispetto all'italiano. Arriva perché a pagare che pensiamo di fregarlo, perché non perché dopo ne arriverà un altro. No, oggi scrivono che in quel posto ti fregano, non vengono più. E lo scrivono su internet, leggono. E funziona, e per fortuna è così, perché ci vuole qualità. E poi c'è un livello però, che se tu inizi a raccontare bene la tua terra, parliamo anche del territorio minore. Cioè del territorio che per esempio nel sud Italia è una componente di offerta potenziale altissima, ma anche un problema di disoccupazione, perché e penso è la rifondata quasi una rivoluzione dolce, perché è il momento di prendere coscienza che questo non sono solo parole, ma se tu porti 50 turisti stranieri, viaggiatori, mi piace chiamarli viaggiatori. Allora, 50 viaggiatori che spendono 1000 euro, quei 50.000 euro su quel piccolo paesino della Basilicata, della Campania, creano, innestano la circolazione della moneta. Siamo a sole 24 ore, me lo insegnate voi che non è la quantità ma la circolazione della moneta. Quei 50.000 euro che vengono innessi permettono a quello che ha si crea un circuito virtuoso. Sì, perché dopo lui va a comprare quell'altro, eccetera. In più c'è una contaminazione culturale, quindi tu hai benessere e anche un po' di felicità. Rimanendo sul tuo territorio, questo si chiama democrazia. Adesso devo mettere il dito nella piaga, però. Roma. Sì. Roma, sì. La capitale. Tutti dicono, vabbè, la città più bella del mondo, ok, forse si contende lo scettro con Parigi per ragioni diverse, però a Parigi i turisti ci sono e vedono una città bella, diciamo la verità. Roma negli ultimi tempi, non voglio entrare nelle dinamiche politiche della gestione del sindaco, dei sindaci eccetera, però oggettivamente Roma negli ultimi 10 anni ha visto un degrado pazzesco. Totale, io ci vivo, è uno schifo. E per questo volevo mettere il dito nella piaga. Sì, purtroppo... Una cosa che secondo te si dovrebbe fare subito per Roma dal punto di vista, per renderla più bella, ma non solo per i turisti ma anche per i cittadini che ci vivono? Non ti so rispondere sul subito, perché le piccole cose sul subito sono troppo radicali i problemi per risolverli subito. Quindi purtroppo almeno ci vuole un medio periodo. Ci vuole un medio periodo. Io non riesco a capire perché ci sono le bancherelle sui marciapiedi. Cioè di fronte a negozio di scarpe c'è la bancherella di scarpe. Ma è una follia. È un caos su un marciapiede molto bello invece. Attenzione, il mercato è un'altra cosa. È bello il mercato. Certo. Sto parlando di queste baracchette messe lì in mezzo a posto dove tu vuoi camminare, che non hanno senso poi per quello che vendono, anche perché poi ci sono i negozi a cui fanno concorrenza sleale. Poi c'è le cose basilari, che però sono politica e cultura nostra. Noi dobbiamo cambiare la testa agli italiani, dobbiamo cambiare la nostra testa, perché quando buttiamo le sigarette per terra non sono le politiche che lo fanno male, siamo noi che buttiamo le sigarette. E vorrei sapere quanti anche dei nostri ascoltatori non solo buttano la sigaretta ma anche sono totalmente inermi quando lo vedono fare. Per noi è normale vedere uno che butta la sigaretta, prova a farlo in Svizzera. Allora perché? Perché la loro terra, puoi toccare la loro terra. È una questione però di cultura a questo punto. Esatto, dobbiamo migliorare. Ecco perché c'è una rifondata sulla bellezza. È una rifondazione, è una piccola rivoluzione, è un cambiamento che inizia. E questo è un percorso lungo, non lo risolviamo in pochi anni. Grazie Emilio Casalini con Rifondata sulla bellezza. Allora, questo libro è Spino Editore. Spino Editore, perché il mio portafortuna è un porco spino di legno. E infatti c'è anche come nella grafica, ma lo si trova in libreria? Lo si trova in libreria, benissimo. Sì, perché aveva fatto la casa editrice su Amazon per chi lo prende online, certo. Ma anche nelle librerie. L'arrivata lì, l'ordinata, Massimo un giorno ce l'avete. Grazie Emilio Casalini. Grazie a voi. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Valeria Bernardi. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Calciatore di Libri su radio24.it e se vi va potete anche scaricare la nuova app di Radio 24, potete scegliere il vostro podcast e mettere anche l'alert per essere avvertiti quando la puntata è disponibile. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.